24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 15 minuti e 30 secondi, la terza parte di 24 Mattino. Maria Latella, buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a te Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Che ci possono raggiungere al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, fateci sentire la vostra voce, anche all'800-2400-24 e siamo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook. Di cosa parleremo oggi? Parleremo tra poco di incidenti stradali e poi di tutte le questioni internazionali di Iran e di Libia. E ce n'è di cose internazionali. Da quelle che succedono in Iraq e in Iran a quello che succede a Palazzo Chigi. Sì, a Palazzo Chigi. Non succede a Palazzo Chigi. Sì, a Palazzo Chigi e anche quello che succede nei palazzi dei reali d'Inghilterra. Ho visto che sul Messaggero oggi te ne occupi, cara Maria. Sì, ieri sera, appunto, appena arrivata la notizia che Meghan, perché penso che sia lei la regista del tutto, e Harry avevano postato su Instagram la comunicazione del fatto che appunto hanno deciso di trasferire parte della loro vita lontano dal Regno Unito, lontano dal palazzo, e udite udite di mettersi a lavorare, anche perché in tutti questi mesi, da quando Meghan è arrivata nella famiglia reale, è stata una successione di critiche a questa coppia, accusata di voler vivere da celebrities, quindi con tutti i vantaggi dei privilegi dei royal, ma di non voler pagare pegno. Aspetta, aspetta. Te lo immagini, Harry nella casetta in Canada che esce e va nella miniera a... Non credo L'impressione che Meghan e Harry abbiano un'idea del lavoro assolutamente, come dire, compatibile con la storia di ciascuno. Lei ha fatto l'attrice, lui finora ha fatto il principe, ha avuto anche dei periodi in cui è stato nell'esercito, eccetera. Il lavoro dei reali è un vero lavoro. Chi segue la serie televisiva The Crown lo sa. Si tratta di andare a visitare scuole, ospedali, di essere presenti, eccetera. Tutto questo forse a Meghan sembrava un po' noioso e soprattutto le sembrava o le è sembrato difficile da sostenere, e può essere capita, avere un'attenzione spasmodica, un controllo su quanto spendevano per ristrutturare l'appartamento Windsor, quanto spendeva per i vestiti, eccetera. E quindi hanno detto... Me ne vado. Vabbè. Però quello che scrivo sul Messaggero oggi è che una cosa del genere non avrebbe avuto l'impatto che ha avuto. Cioè, ieri quando è uscita la notizia, gli online di praticamente tutti i paesi, Gran Bretagna esclusa, perché il Guardian non l'ha messa come primo titolo in homepage, ma gli altri sì. Cioè, ha superato la questione libica e quanto stava succedendo tra la Casa Bianca. Però questo perché? Perché loro hanno usato i social. No, perché tira, perché fa più click, Maria, dai, su. Sì, è vero, fa più click, ma i social hanno enfatizzato, amplificato questa cosa, così come i social rivelano tutto di quello che fanno le celebrities. E in questo senso, ovviamente, mentre quando il duca di Windsor abdicò, la cosa a un certo punto venne tenuta in qualche modo, non costretta, adesso nell'era dei social non la puoi più tenere costretta. Sicuramente, per così dire, al di là, no, della questione di puro gossip, di ragionamento sui VIP, è interessante che tutto questo avvenga, quella che per molti è una sorta, no, di demolizione dell'istituzione della monarchia inglese in una fase così delicata per la Gran Bretagna, che si sta preparando ad uscire dall'Unione Europea, e quindi, non so come dire, è un paese che sta fibrillando per tutta una serie di motivi, e forse questo è l'aspetto più interessante a livello generale. Se ne stanno andando un po' di personaggi della famiglia britannica. La prima a fare questa scelta dopo il duca di Windsor fu Lady Diana. Poi, ed è uscita di scena prima col divorzio e poi in quel modo tragico. Poi di recente è uscito di scena il principe Andrea, coinvolto nel Me Too. Adesso se ne vanno Meghan e Harry, E pare che appunto anche il matrimonio di William e Kate non stia funzionando. Quindi è un paese, come dire, come si dice, che fibrilla per tanti motivi. Se vogliono, dice Roberto da Bergamo, ai Reali dono la mia partita IVA. Va bene, no, non è male. Glielo facciamo sapere. Andiamo su cose serie. Va, Matteo Mauri, sì, vice ministro dell'Interno, buongiorno, benvenuto, eccoci. Grazie, buongiorno a tutti. Vai Maria. Buongiorno. Allora, la prima cosa che le vogliamo chiedere, perché riguarda davvero tutti, chi guida e noi pedoni, noi che non guidiamo. Dopo le grida manzoniane, l'aumento vistoso delle pene per i conducenti sorpresi con un tasso alcolemico troppo alto o sorpresi con consumo di stupefacenti, dopo tutto questo che in questi anni tutto sommato non ha dato gli esiti che si speravano, perché gli incidenti con automobilisti che hanno bevuto o si sono drogati sono all'origine di tante morti di questo anno, non stiamo di nuovo a ridare le cifre. Qual è la strada che il governo intende percorrere per mettere un limite alle morti, visto che in Europa l'Italia precede per numero di morti in incidenti stradali solo la Bulgaria e la Romania, mi pare. Germania, Francia, Gran Bretagna hanno tassi molto più bassi, anche perché lì nessuno si mette alla guida, molto raramente si mette alla guida ubriaco o avendo preso sostanze stupefacenti, perché le pene e le conseguenze sono davvero applicate. Quello che dice lei è vero, cioè noi abbiamo una delle legislazioni più dure in assoluto nel mondo, soprattutto per l'omicidio stradale che abbiamo introdotto la scorsa legislatura. Questo non ha fatto diminuire in maniera consistente i morti, però è anche vero che non abbiamo la controprova, cioè non sappiamo come sarebbe andata se non avessimo fatto quella legge. I morti in generale in Italia sono sopra la media europea, però sono molto diminuiti, perché se noi pensiamo che solamente nel 2001 erano 7.000 e oggi sono 3.300, c'è stata una discesa consistente, che è data anche dal fatto che sono migliorate le macchine, per cui è migliorata sia la sicurezza attiva che quella passiva, cioè quella che difende il guidatore e i componenti dell'auto, sia invece i pedoni, piuttosto che non ci sono solo i pedoni, ci sono anche i ciclisti, ci sono i motociclisti, cioè tutti quei soggetti vulnerabili. Dopodiché c'è un tema di fondo che è un tema legato all'educazione alla guida, all'educazione stradale, che però non coinvolge solamente gli automobilisti, perché noi sbaglieremmo se pensassimo solamente al tema dell'educazione legato a chi guida, perché è una questione di educazione legata alla strada, cioè come si vive la strada. Vale per gli automobilisti, vale per i camionisti, i conducenti dei mezzi grandi, ma vale anche per i motociclisti, per i ciclisti, per i pedoni. Perché è una serie di comportamenti scorretti che porta al fatto che non riusciamo a ridurre il numero di morti in maniera così consistente come dovremmo fare. Allora qua c'è un tema che va oltre le leggi, perché in realtà la legge è applicata, perché in tutti i casi di omicidio stradale sono stati, si sono comminate le pene, iniziati i processi in funzione di quello che è previsto dal reato. E allora forse c'è da fare un lavoro più di fondo, che potremmo definire del CAR, cioè della consapevolezza, dell'attenzione e del rispetto verso gli altri. Però si è visto, perché... Ministro, si è visto che molti ai quali era stato temporaneamente ritirata la patente, poi sono tornati a guidare. Adesso non voglio citare solo il caso di Pietro Genovese, gli era stata ritirata, poi gli è stata riconsegnata ed è poi successo quel che è successo. Ma altri casi in cui ci sono stati morti sulle strade e a guidare c'erano persone che addirittura la patente non ce l'avevano più e comunque alla guida si erano messi lo stesso. Quelli però in quel caso scatta l'arresto per guida senza patente e omicidio. Però uno, anche qua, è un tema di rispetto, delle regole in questo caso, cioè se io ti ritiro la patente e poi tu ti prendi una macchina e guidi, e non è che posso preventivamente impedirtelo, a meno che ti metto in domiciliario, ti metto in galera. Per questo c'è un tema anche di rispetto degli altri, non solamente di educazione stradale, perché oltre agli elementi che lei diceva, che sono assolutamente corretti, il tema dell'alcol, che in aumento tra i giovani, l'uso delle droghe, che in aumento tra i giovani, sono due elementi importanti. C'è quello della distrazione. La distrazione fa più tanto, ma non così tanto come quando qualcuno digita sul telefono per aggiornare il proprio profilo o per leggere il messaggio WhatsApp. Su questo si possono introdurre dei meccanismi che però in giro non ci sono ancora, per di fatto impedire l'uso del telefonino in macchina. È ovvio che è da parte del guidatore, è ovvio che è una limitazione anche della libertà, è ovvio che è anche aggirabile, però quello può essere un elemento. Così sì. Come dal punto di vista tecnico, in alcuni paesi sta sperimentando questo etilometro, si chiama alcohol lock, per cui prima di per poter accendere la macchina bisogna soffiare dentro una specie di etilometro e se rileva il tasso superiore non fa partire la macchina. Si può sperimentare anche in Italia questo, Mauri? Si può pensare a introdurre? Si può sperimentare anche in Italia, questa iniziativa europea, qualche paese lo sta facendo. Ma avete intenzione di farlo, dico? Io so che al MIT, cioè al Ministero dei Trasporti, stanno valutando diverse cose. Si può fare anche questo, però guardate, il punto base è l'educazione stradale, il rispetto per gli altri, il rispetto delle regole, perché se non si riesce a incidere su questo, quei tassi di incidentalità, oltre che di morti, non si riescono a ridurre, perché mentre i morti sono più o meno stabili negli ultimi 3 anni e diminuiti moltissimo negli ultimi 20, ma anche negli ultimi 10, gli incidenti sono comunque in crescita, anche perché sono in crescita il numero dei veicoli. Però se pensiamo che nel 71 c'erano 11.000 morti all'anno, 11.000, e oggi ce ne sono 3.000, è chiara la differenza. Certo, Mauri, c'è una questione che ha a che fare, ce lo sottopongono molti ascoltatori, con i controlli che dicono sono pochi. Si possono aumentare, però è anche vero che con gli stessi controlli sono diminuiti molto negli scorsi anni, per cui non è solo un tema di controlli, è anche un tema di controlli, sì. Però se ne fanno diversi, la stradale ne fa tanti, i carabinieri ne fanno tanti nel corso dell'anno. E c'è anche concentrati, per esempio, nel sabato sera, il venerdì sera, cioè quel dove vi ricordate un po' gli anni fa che c'era tutto il tema delle stragi del sabato sera. Sì, le stragi del sabato sera ci sono ancora, ministro. Ogni lunedì, purtroppo, qui a Radio 24 Mattina con Simone Spezia dobbiamo prendere atto di 2, 3, 4, 5 ragazzi. Vittime degli incidenti del sabato sera. È il motivo per cui si concentrano i controlli soprattutto in quelle fasce. Cioè, per esempio, è chiaro che è un problema molto rilevante, anche perché se pensiamo che ogni 2 anni è come se sparisse un comune medio italiano, perché un comune medio italiano fa 7.500 persone, se ne sommiamo i morti di 2 anni sono 6.600-7.000 persone, cioè pensare solo a quella cosa lì è una cosa tragica evidentemente, oltre al fatto che ogni singola vita, anche se fosse uno di meno solamente al giorno, e sono tanti al giorno, sono quasi 9 al giorno i morti, è una famiglia meno distrutta, per cui è chiaro ci deve essere la massima attenzione. Anche una questione, ce la sottopongono molti ascoltatori, una questione che ha a che fare con ciclisti e pedoni, non inteso in questo caso solamente come vittime, ma come attori di una sicurezza stradale mancata. Si pensa ovviamente ai ciclisti che vanno contromano e magari con il telefonino, ai pedoni che attraversano dove non dovrebbero e quando non dovrebbero. Si può fare qualcosa su questo fronte, Mauri? Guardi, è quello che dicevo prima, cioè è più giusto parlare di educazione stradale che di educazione alla guida. Si può fare qualcosa, sì, fino a un certo punto, nel senso che anche qua le leggi ci sono, non si può attraversare dove si vuole, bisogna attraversare sulle strisce o al semaforo quando è verde, altrimenti anche il pedone può essere multato. Anche qui è un tema di comportamenti. Senta. Il nostro è un paese curioso, dove quando uno va in macchina si lamenta perché il pedone è troppo lento ad attraversare, con la stessa persona che è in macchina, quando è pedone, si lamenta della macchina che si è fermata troppo vicino alle strisce. Quando quella stessa persona è ciclista, si lamenta della macchina vicina. Perfetto, ma allora si lamenta del ciclista. Scusi, ministro Mauri, ma siccome questo è vero da sempre, fa parte anche del carattere degli italiani, Vittorio Gassman, in un fantastico film di, se non sbaglio, di Scola, faceva notare proprio questo cambiamento, no? di personalità nell'italiano da quando era pedone a quando era automobilista. Certo. Allora, nelle scuole tedesche, e scusate, mi scuso con gli ascoltatori perché cito sempre queste due esperienze, quella francese e quella tedesca, ma sono quelle che conosco. Nelle scuole tedesche, dalla prima elementare, c'è un enorme cartello che dice: se qualcuno fa qualcosa di sbagliato, non significa che sia giustificato che faccia qualcosa di sbagliato pure tu. Cioè si insegna sin ai bambini dai 6 anni e si continua a insegnare in maniera continuativa il rispetto delle regole. Da noi non è così. Vogliamo capire che è compito dei governi che si succedono con una certa, diciamo, intensità in Italia assicurare il fatto che il rispetto delle regole è una cosa sana e non è da furbi non rispettarle? Io sono non d'accordo con lei, stra d'accordo con lei. Le posso solo aggiungere che non è solamente responsabilità dei governi o dei parlamenti, ma sarebbe responsabilità di tutti, a partire dai genitori, dalla famiglia, dagli adulti, dalla scuola, per cui è un po' più generale. In Germania, come dice lei, c'è un atteggiamento diverso rispetto alle regole. Sono quelli che avevano un'incendialità più alta in assoluto in Europa, sono riusciti a ridurla più di chiunque altro, per cui è proprio questo il tema, è un tema di regole non solo messe ma rispettate. Quando parlo di educazione parlo esattamente di questa cosa qua, a partire anche dalla scuola, perché noi siamo nella logica per cui se io e lei siamo al semaforo e io passo col rosso, lei è più tentata a passare anche lei piuttosto che stare ferma. Mi sbaglio? È una cosa connotata, è vero, di noi. È vero. Perché è la solita logica nostra, cioè, ma perché quello è più furbo di me? Allora infatti io. E invece il tema è quello, sto sbagliando. È assolutamente così. Condivido. Alessandro da Genova, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi sono dimenticato di dire che non ci sono controlli. Nel senso, il problema soprattutto in Italia sui controlli autostradali, che non ci sono controlli. Abito in Liguria e da noi i controlli sulle strade sono veramente inesistenti. Ogni tanto ci sono le pattuglie fuori dai caselli al sabato sera dove magari c'è qualche discoteca, ma per il resto nelle zone dell'entroterra non c'è più una pattuglia che fa i controlli. Se uno vuole bere in un bar, non so, delle alture di Savona ed esce ubriaco, ma chi lo controlla? Quindi se non ci sono i controlli potrete fare tutte le leggi che volete, ma alla fine uno che vuole bere si ubriaca e fa quello che vuole. E guida anche due WhatsApp audio, via. Oltre alcol stupefacenti, parliamo di telefonini? Parliamo che ci sono persone alla guida di mezzi che sicuramente sono dotate di sistema Bluetooth viva voce che continuano a usare il telefono? Io ho 40 anni praticamente e mi ricordo che ai miei tempi alle scuole elementari, alle scuole medie si martellava su tanti argomenti, alcol, AIDS, droga e tutti gli effetti che questi avevano sulla vita delle persone. Oggi non mi risulta, io ho due bambine e sinceramente di questi argomenti se ne parla poco oppure se ne parla male o troppo poco. E credo che bisogna martellare di più sull'educazione a scuola e su tutti quelli che sono appunto gli effetti che l'alcol, la droga hanno sulle persone e sulla vita di ogni giorno. Mauri, è un po' quel che ci siamo detti fino adesso. Sì, abbiamo risposto preventivamente, mi sembra. Non sulla parte dei controlli, che forse è quella la cosa ci segnalano più di tutti. Alcuni dicono: guardi, io non vengo controllato, saranno 10 anni che non vengo controllato praticamente. Insomma, quindi quello dipende, è un tema. Forse. Dipende anche la vita che fa uno, nel senso che se uno esce la mattina alle 8 va a lavorare, torna a casa alle 7 di sera, alle 8 di sera e fa rimanere la televisione, è più difficile che venga controllato. I controlli sono concentrati in alcune fasce, poi si potrebbe sicuramente fare di più, dopodiché i controlli sono aumentati anche recentemente, ma guardate, nessun controllo potrà mai impedire che quello del paesino che beve al bar e poi va a casa si schianta con la macchina, perché è matematicamente impossibile. Sull'autostrada c'è il divieto di 20 in autogrill dopo una certa ora di alcolici. E c'è il tutor, che è una, credo, esperienza straordinaria italiana, soprattutto italiana, che ha ridotto in maniera drastica le morti in autostrada. Dopodiché è chiaro che l'incidentalità, quella più pericolosa, è quella sulle strade extraurbane, non autostradali, però sapete anche quanta è la rete stradale. Dopodiché anche sul tema del controllo, che è importantissimo, sia alcol che droga, è chiaro che quello è un elemento centrale. A me piacerebbe sapere se quegli automobilisti che, parlo di Roma, negli ultimi 4 anni sono stati protagonisti purtroppo di omicidi colposi, penso a 2 turiste, giovani donne straniere che furono vittime di incidente stradale attraversando il Lungotevere, ma tanti. In quasi tutti i casi l'automobilista risultò positivo al test cocaina o alcol. Secondo lei, per la sua esperienza, a queste persone è stata poi restituita la patente? Guardi, stesso su questo caso specifico non lo conosco. No, nemmeno io, certo. Dopodiché, se il fatto è accaduto dopo la legge, dopo l'entrata in vigore della legge che abbiamo fatto come centro-sinistra la scorsa legislatura sull'omicidio stradale, no, lì ci richiede la patente lunghissimo. Ci sono delle conseguenze molto grosse, però bisogna andare a vedere dal punto di vista giudiziario come sia finita la cosa. E ogni singolo caso è differente, naturalmente. Grazie Matteo Mauri, viceministro dell'Interno, per essere stato con noi. E le auguro buona giornata. Grazie, buona giornata. Buon lavoro, una pausa e poi andiamo sulle questioni estere con l'ex ministro degli esteri Franco Frattini. A tra poco. Dopo il flop dell'incontro a Roma che doveva esserci fra Serraj e Haftar, l'Italia a livello di politica internazionale ormai è veramente diventata una barzelletta. Questo attacco missilistico iraniano alle basi americane in Iraq, così tanto giustamente enfatizzato dai media, ma alla fine è stato cosa? È stato un grande fuoco d'artificio? È stata una manfrina, perché gli americani sono stati lì tranquilli, non hanno reagito. Sembrava sapessero già che questi missili non avrebbero fatto molti danni e sapevano già dove sarebbero caduti. Le vostre voci al 349-238-6666, potete anche chiamarci all'800-24-0024. Franco Frattini, ex ministro degli esteri, ex commissario europeo, presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Frattini, buongiorno, benvenuto. Eccoci. Buongiorno. Maria, prego. Buongiorno Frattini. Buongiorno. Il nostro ascoltatore diceva una cosa che è giusto, come dire, ribadire. Sì, gli americani lo sapevano che quell'attacco missilistico ci sarebbe stato, erano stati informati, quindi sì. Diciamo è abbastanza percepito come si sia in una fase intermedia, poi vedremo se è una fase temporanea e ci sarà una nuova escalation del conflitto, cosa che ovviamente non ci auguriamo, oppure no. Ma con lei Frattini vorrei andare all'altro tema introdotto da un altro ascoltatore, vale a dire il premier Giuseppe Conte ieri ha incontrato Khalifa Haftar a Palazzo Chigi. Era atteso anche l'altro esponente, leader, il premier del governo di Tripoli, al-Serraj, che non è arrivato. Ora, per la sua lunga esperienza, Frattini, è possibile organizzare una delicatissima, diciamo, un delicatissimo equilibrio con 2 leader libici che sono in conflitto tra loro e pensare di farli venire tutti e 2, tra l'altro facendo gestire, a quanto si sa, la questione non agli ambienti diplomatici, ma ai servizi segreti italiani? Non è stato un peccato, diciamo, di eccessiva confidenza, per non parlare di leggerezza? Ma guardi, io ho detto in questi giorni, in qualche occasione, che noi avevamo avuto un'occasione e una importante opportunità, che era quella della conferenza di Palermo, in cui viceversa sia Serraj che Haftar erano venuti, e nei mesi successivi alla conferenza di Palermo avevamo un po', come dire, perso questa posizione che l'uno e l'altro ci avevano riconosciuto, cioè di interlocutore che è credibile verso gli uni e verso gli altri. E penso anche che la ragione del forfè all'ultimo secondo di Serraj sia dovuta al fatto che siamo molto in ritardo come Italia, ma soprattutto come Europa. Questa storia della missione europea annunciata e poi ovviamente fallita, era chiaro che sarebbe fallita, quando già la Turchia impegna 5.000 soldati a favore di Serraj, che motivo ha Serraj di riferirsi all'Europa o men che meno all'Italia? Ormai ha un suo mentore che lo protegge e lo sostiene dinanzi a ogni problema. Quindi è frutto del ritardo con cui si è giocato e io non so in retroscena di questa vicenda, ma francamente una cosa così delicata, non so se soltanto i servizi segreti, se è vero che di questo si tratta, possano davvero organizzarla in un momento in cui abbiamo un ministro degli esteri italiano che sta viaggiando nei territori, perché va in Egitto, va in Algeria, comunque è stato appena ad Ankara a parlare proprio con il ministro degli esteri turco, che è quello che con Serraj è ovviamente il principale tutore e sostenitore, e il forfè di Serraj mi sembra dovuto a un cortocircuito, come dire, tra canali organizzativi, e anche al fatto che non si è chiesto prima: ma che cosa vogliamo ottenere da questo incontro? Siamo in grado come Italia di offrire una proposta appetibile? Ad esempio, l'Italia potrebbe promuovere quello che in altre zone di crisi l'Italia promosse, ricordo in Georgia durante il rischio di invasione russa, l'Italia promosse un gruppo di mediazione dell'OSCE in quella zona del mondo, perché in quella zona del mondo opera l'OSCE, e ci fu un gruppo che intervenne proprio nelle zone di confini, non di soldati combattenti, ma di peacekeepers, che evitarono ulteriori contatti e da allora il cessate il fuoco fu rispettato, più o meno quello che con grandi difficoltà si sta cercando di fare in Ucraina, in Donbass, in Donetsk. Allora, un gruppo di contatto e di interposizione tra le due parti combattenti, l'Italia è in grado di chiederlo all'Europa, non da soli ovviamente, è ovvio che non dobbiamo mandare militari combattenti, ma la tradizione del peacekeeping nei Balcani, in Georgia, in Ucraina, noi la conosciamo bene, quindi questa sarebbe stata forse una proposta concreta, perché sa, sì, quando gli uni e gli altri hanno alle spalle uno Ankara e uno Mosca, sì, insomma, l'Europa tace, insomma, non vedo le ragioni di riferirsi ad un paese dell'Europa come l'Italia, che in fondo aveva grandissime occasioni fino alla conferenza di Palermo e poi un po' le ha dissipate. Questa è la realtà. Non ha l'impressione, Frattini, che in realtà ci fosse tutto sommato poco da fare, ossia nel momento nel quale i russi, certo, intervengono sostanzialmente a fianco di Haftar, certo, certo, anche se tu vai a proporre a Serraj e allo stesso Haftar una forza di peacekeeping, quelli ti dicono: no, ma ragazzi, ci sono le armi sul terreno, basta, cioè è inutile ragionare di peacekeeping. No, no, quello invece, sicuramente c'è stato un ritardo e sicuramente tutte le idee sono arrivate troppo tardi, ma ancora oggi io credo che non ci sia né nella Russia né nella Turchia l'idea di stimolare una vera e propria guerra. Tanto è vero che si sono visti ieri, no? Esattamente, tanto è vero che l'incontro di Istanbul è stato come fu per la Siria. Si vedono Putin ed Erdogan, si danno la mano e si regolano il futuro della Siria, e qui più o meno sta avvenendo la stessa cosa. Ecco, mi perdoni Frattini se la interrompo, ma in tutto questo lei dice il silenzio dell'Europa. Sì. C'è una evidente, diciamo, distonia tra l'apparente silenzio e però l'attivismo francese. Ancora, certo, questa mattina un quotidiano, il Fatto Quotidiano, racconta che quella che doveva essere appunto l'incontro fondamentale a Bruxelles tra le parti, in qualche modo sarebbe stato sabotato, comunque depotenziato dalla Francia, che non vuole che l'Europa abbia davvero certo. un'iniziativa, perché vuole averla lei, cioè vuole essere la Francia a parlare con Turchia e con Russia. Sì, ma questo è credibile, ed ecco che allora, siccome l'Italia avrebbe avuto, e torno al ritardo, una posizione sicuramente privilegiata rispetto alla Francia, con la Turchia e con la Russia, nessuno può negare che i rapporti storici che abbiamo noi, come dire, dai tempi di Pratica di Mare in poi, con la Russia e col presidente Putin, avrebbero potuti essere messi a frutto molto meglio. Ecco perché io ho detto che sarebbe importante che l'Europa si riunisse e riflettesse politicamente sulle sanzioni alla Russia, perché nel momento in cui tu tieni sulla testa di Mosca le sanzioni e poi chiedi a Mosca che faccia, come dire, il facilitatore nel tuo interesse, chi prende l'iniziativa indubbiamente qualche merito agli occhi di Mosca se lo prende, ma sono tutte cose che vanno giocate una dopo l'altra, non si può oggi evidentemente è giusto dire che né Serraj né Haftar vengono a Roma a dire grazie, dateci qualcosa, oppure grazie per quello che ci avete fatto, perché oggettivamente non è così, ma che la Francia si muovesse lo sapevamo già. Ecco perché io ribadisco che qui ci vuole un'azione dell'Europa, perché se ci mettiamo Francia contro Italia, poi si infilerà la Germania, è noto che ci sono altri paesi che potrebbero sostenere o questo o quell'attore europeo, ancora una volta diamo il segnale chiaro al mondo che l'Europa è frazionata in 3, 4, 5 fazioni. Ecco perché però, io torno sull'Europa, perché sì, altrimenti non c'è via d'uscita. Frattini, siamo anche d'accordo, però è evidente che l'Europa è frazionata, no? E lo è e lo rimane, cioè lo testimoniano anche il racconto riportato appunto dal Fatto Quotidiano che citava Maria Latella sì. un istante fa, no? Sì. La partita libica è persa o no, secondo lei? La partita libica sarà persa quando Russia e Ankara e Turchia ci faranno sapere che hanno deciso le due zone di influenza, quindi la partizione della Libia in due. Allora sarà persa. La Libia ha una struttura tribale. Io non mi meraviglierei, conoscendo la storia libica, che un giorno si dicesse Cirenaica, sostenuta da ovviamente Russia con l'Egitto, con gli Emirati, Tripolitania, con Ankara, col Qatar e con altri attori arabi. Non mi meraviglierei, perché la storia della Libia non è di unità nazionale, ma lì sarebbe persa per noi definitivamente, perché noi... Possiamo raccontare, Frattini, ai nostri ascoltatori un primo esempio di quanto costerebbe nelle vite quotidiane di ciascuno di noi una situazione di questo tipo? Penso per esempio all'energia, al fattore energetico. Che cosa cambierebbe? Ecco. Costerebbe moltissimo, perché noi abbiamo dalla Libia una quota importante delle nostre forniture petrolifere. Se fossimo, tra virgolette, tagliati fuori, non dimentichiamo che sia Russia che Turchia hanno grandi interessi energetici nel mondo, e quindi è ovvio che Rosneft o altre società russe sono già lì sul campo, ed è ovvio che la Turchia, che è un hub petrolifero, perché dalla Turchia passano tutti i gasdotti e tutti gli oleodotti più importanti, monopolizzerebbero flussi e distribuzione anche dalla Libia. Ecco perché io dico, poi altro che dipendenza dalla Russia, aumenterebbe molto, perché l'interlocutore principale sarebbe da un lato la Russia, dall'altro la Turchia. Entrambi, noi sappiamo tutti che la Turchia sta facendo il finimondo per impedire all'ENI di esplorare i pozzi offshore nel certo. Mediterraneo orientale davanti a Cipro. Nell'area di Cipro, certo. E sì. Noi avremmo il diritto di esplorare, perché quelle sono acque di Cipro, ma la Turchia ci manda le navi da guerra davanti, quindi ci sono interessi fortissimi a concentrare nelle loro mani il volè di distribuzione nel resto del mondo, e anzitutto in Europa e in Italia. Quindi solo per quel fatto una partizione della Libia in due ci creerebbe un danno molto grande. Senta Frattini, ma perché di queste cose si parla così poco? Vale a dire, è interesse nazionale, ma perché questo interesse nazionale non viene condiviso, maggioranza e opposizione? Io mi aspetterei che del trattamento che da mesi viene riservato all'ENI, dire, ci fosse consapevolezza fra tutti, e invece no. Lei come se lo spiega? Guardi, non è cosa nuova, si sta peggiorando di anno dopo anno. Io ad onor del vero, le nostre sedute parlamentari, quando riferivo alle Camere sulla Libia, me le ricordo abbastanza affollate e abbastanza vivaci. Vedo oggi, l'ho visto qualche tempo fa, il presidente Conte parlava delle prospettive in vista di un Consiglio europeo, c'erano 20-30 persone in aula. Me lo spiego col fatto che si crede che queste siano problematiche lontane, però io ho sempre detto a chi parla così: quando i problemi pensi che tenendoli lontani li eviti, poi ti vengono loro a casa, ti entrano dentro casa i problemi, arrivano, camminano, come è la storia dell'Iran se non governiamo con prudenza lo scacchiere del Medio Oriente, come è la storia della Libia, perché tutto si tiene. Partizione della Libia in due vorrebbe dire che la Tripolitania avrebbe un canale suo, tutto suo, dove eventualmente far passare flussi anche di migranti / rifugiati e magari un po' di jihadisti, perché lì dentro, per esempio nella zona di Sirte, jihadisti c'erano, nella zona di Derna ci stanno e ci stavano. Quindi tutte queste cose che la gente non si immagina, poi accadono, te le trovi in casa e allora tutti sono meravigliatissimi. Questa è la ragione. È una mancanza di visione politica. Nella politica estera si pensa che è estera, non è estera, è nazionale, perché i problemi poi ci arrivano dentro casa. Frattini, ti faccio fare un'ultima domanda, in realtà, perché abbiamo veramente poco tempo, ed è sull'altra grande crisi, che è quella tra Iran e Stati Uniti. La sua impressione è che, allora, non dico che si sia risolto tutto, ma il grosso sia passato, a fronte di quel che abbiamo visto da parte degli iraniani e a fronte della reazione del presidente americano Trump? Guardi, intanto lo spero, ovviamente, per il bene del mondo, ma credo che quella reazione iraniana sia stata la reazione minima doverosa, ecco, diciamo così. Con i milioni di persone nelle piazze, l'Iran ha fatto due colpi in uno. Uno, ha trasformato le proteste contro il governo iraniano per il caro vita, per il costo della benzina, bla bla bla, in sostegno al governo in nome dell'orgoglio nazionale. Due, ha fatto capire agli americani che qualche colpo lo possono ancora dare, che sull'Iraq l'Iran vuole continuare ad avere una parola importante. Ma al di là di questo, l'Iran sa bene che è circondato da nemici, perché Arabia Saudita, Egitto, Israele, la stessa Turchia, che come a tutti abbiamo visto non ha speso grandi parole di dolore per la uccisione di Soleimani. Quindi l'Iran sa bene in che situazione si trova, quel colpo lo doveva dare, io mi auguro, ma posso dire di essere confidente che poi alla fine non si andrà molto oltre. Qualcos'altro probabilmente accadrà e io guarderei a teatri di crisi molto delicati come il sud dell'Iraq, per esempio, o come la zona tra Iraq e Afghanistan, perché attenzione, noi qui ci dimentichiamo sempre che esiste un altro grande luogo del mondo di potenziale crisi di cui ora nessuno parla, ma magari un domani ne riparleremo. Grazie Franco Frattini, ex ministro degli esteri, ex commissario europeo, per essere stato con noi. No, dobbiamo veramente chiudere, Maria, lo so. Volevo aspetta. Voto per Di Maio, ministro degli esteri, che è stato così attaccato. Solo il voto. Mai un ministro degli esteri dà i voti ai suoi predecessori. Buona giornata. Grazie Franco Frattini, anche presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Maria, ci sentiamo domani 8. 20, a domani, ciao. Grazie Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza e redazione, grazie a Margherita e Francesco Ceraffo, i nostri autori. A domani alle 6:30, ciao.